Radio 24 Reportage. L'Europa che travolge, di Francesco Pigozzo e Antonello Riccelli. La crisi qui, la naturale sordità, al nuovo, sarebbe momentaneamente venuta a me. No, sono scuse che non reggono. Davvero, non reggono. Se ci fermiamo adesso, addio guarigione. Pensiamoci bene, in Europa si è fatto molto, e anzi, alcune conquiste agiscono già come una logica progressiva per il mondo. Ma manca l'essenziale, e sempre più si va avanti a piccoli pezzi, facendoci perdere di vista il punto di partenza, tanto quanto quello di arrivo. E allora bisogna capire da dove è nata l'idea di unire l'Europa per darle una nuova vita. Impresa non facile in tempi di crisi in cui l'Europa è spesso vista come fredda e noiosa o per alcuni addirittura nemica, ma c'è chi invece si è lanciato in questa impresa convinto che sia la sfida più importante del nostro tempo per superare la crisi stessa. Paolo Barillari, in realtà l'Europa è soprattutto travolgente? Come cantante e attore io ne sono rimasto senz'altro travolto. Era il 2007, mi chiamano due amici per farmi leggere un copione e ci è legato un testo di Altiero Spinelli sugli Stati Uniti d'Europa. Devo dire che all'inizio li ho presi per pazzi. Titolo dello spettacolo: Come va il mondo? Nome del personaggio da interpretare, l'individuo. I due pazzi mi hanno folgorato. È dal 2007 che lavoro per vestire, portare in giro i panni di quell'individuo e non passa giorno senza che mi renda conto dell'attualità del suo dramma. Internazionale vuol dire quello, ma vuol dire anche spazio per sottrarsi alla necessità di badare all'ambiente e alle sue risorse, alla necessità di cambiare il modello di sviluppo, di combattere l'ingiustizia sociale del mondo. Mi avremmo ad aggiungere gli interessi immediati, non che continuiamo a vivere con questo nodo della sovranità sempre più assurdo qui alla gola, non solo rispetto all'avvenire in sé dell'Europa, rispetto alla sopravvivenza della specie, rispetto al senso da darci. Come va il mondo è il dramma di due personaggi che scoprono cosa c'entra la divisione politica dell'Europa con le assurdità e con le crisi del nostro tempo e che si mettono in testa la folle idea di raccontarlo agli altri per attivarli a favore della soluzione più ragionevole. È uno spettacolo che fa appello al nostro bisogno di autenticità. In fondo abbiamo voluto scavare nelle contraddizioni della società del disimpegno e dell'indifferenza. Ma è anche la prima tappa creativa di un percorso che ha portato Francesco Pigozzo e Daniela Martinelli a lavorare sui linguaggi dello spettacolo per parlare di Europa. Prima di Grillo e con scopi diversi. Gli scopi sono totalmente diversi. Intanto a noi non interessa l'indignazione fine a se stessa e tantomeno ci interessa l'indignazione fine alla conquista di un potere nazionale, anche perché a noi interessa proprio mostrare che l'illusione dei poteri nazionali è la vera malattia dell'Europa. E poi le sovranità nazionali, di fatto, ce le siamo giocate fin dalla Seconda Guerra Mondiale. E la vera lotta oggi è proprio tornare a essere cittadini sovrani a tutti i livelli, attraverso una democrazia sovranazionale, una democrazia europea compiuta. Quindi per noi lo spettacolo non è uno strumento rispetto a un fine, è il linguaggio più adeguato a farci prendere coscienza delle contraddizioni in cui siamo immersi. Con l'esperienza di Come va il mondo abbiamo cercato di andare alle radici di queste contraddizioni nel tentativo di sradicarle. Però abbiamo anche capito che per arrivare davvero a tutti mancavano probabilmente degli ingredienti essenziali, aggiuntivi. Uno di questi senz'altro è la musica. Così nasce il secondo spettacolo, musica, teatro e una storia d'amore, non per contrapporsi all'Europa della cronaca economica e politica, ma per ridarle il calore della partecipazione. Un'idea senz'altro coraggiosa. Assieme sul serio o di nuovo divisi? Si sentirono dire. La risposta? La risposta fu generosa. Yeah. L'idea in verità nasce da Daniela Martinelli, che oltre ad essere coautrice degli spettacoli, è anche la regista, scenografa, progettista. Non ama parlare in pubblico, ma la verità è che lei è il motore creativo di quello che ormai è diventato un gruppo. Un gruppo attivo su più fronti, ma che si pone sempre il medesimo obiettivo. Travolgere nel senso di emozionare i cittadini. Emozionarli per il progetto di unificazione democratica dell'Europa, naturalmente. Un progetto per noi necessario, ma che senza la partecipazione attiva dei cittadini, per definizione, non si potrà mai portare a compimento. L'Europa incompiuta, invece, è quel che rischia di travolgerci nel senso negativo. No! Europa che passione è un recital musicale che racconta la storia di un amore invincibile ma tormentato e ancora in cerca di appagamento. È la nostra storia recente di europei, perché sono ormai 100 anni che dobbiamo deciderci a vivere uniti. Il paradosso è che è la storia che pesa di più sul nostro futuro, ma che conosciamo di meno. Io stesso me ne sono reso conto soltanto interpretandolo, questo spettacolo. Europa che passione vuole restituire ai cittadini europei quello che le classi dirigenti di tutti i nostri paesi, consapevolmente o meno, ci hanno confiscato per decenni, a forza di nascondere azioni europee dietro fumosi discorsi nazionali, ovvero la possibilità di emozionarci per ciò che ci riguarda più da vicino. Europa che passione vuole restituirci questo mal tolto, perché senza emozioni non c'è vera partecipazione. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mio. Francesco Pigozzo nel 2012 entra nel gruppo di ricerca sull'Europa coordinato da Roberto Castaldi presso l'istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e i due decidono di unire i risultati della ricerca scientifica alla creatività artistica, inserendo Europa che passione e Come va il mondo in un nuovo format chiamato Giornata di Consapevolezza Europea. Già da 2 anni partecipo con i miei studenti che frequentano il liceo scientifico Fermi di San Marcello Pistoiese alle Giornate di Consapevolezza Europea della Scuola Sant'Anna. Come docente che si occupa di innovazione didattica, ormai da tempo, attualmente sono il Twitter coordinator di Twitsofia e Dialoghi sull'Uomo, sono convinta che rappresentino un modo davvero nuovo di parlare di Europa. L'eccellenza della Scuola Sant'Anna si fonde con forme di musica e spettacolo capaci di emozionare e dunque di interessare in modo inedito non solo i nostri studenti, ma tutti i cittadini, garantendo un apprendimento permanente valido a tutte le età. Sono stato invitato a partecipare alla giornata della consapevolezza europea organizzata a Napoli lo scorso novembre in quanto esperto di informazione nell'ufficio di Roma della Commissione europea, ed ho potuto apprezzare l'originalità di questo format che mette insieme da un lato interpretazioni musicali particolarmente coinvolgenti, dall'altro interventi accademici uniti da un forte coinvolgimento del pubblico. Nel giro di 2 anni il format ha già coinvolto più di 10.000 partecipanti nei teatri di tutta Italia e ha spinto la creazione della prima società spin-off del Dirpolis al Sant'Anna di Pisa, il CESU. E CESU si propone ora di diffondere le giornate e le opere di Martinelli e Pigozzo nei teatri e nel circuito mediatico di tutta Europa. Roberto Castaldi, la vostra è una corsa contro il tempo? È una corsa contro il tempo per convincere gli europei a salvare la loro civiltà. Gli europei oggi sono come i greci delle polis di fronte all'ascesa dell'impero macedone e dell'impero romano, e come gli italiani degli staterelli del Rinascimento di fronte all'ascesa degli stati europei moderni, Francia, Spagna e Impero Asburgico. Hanno una scelta semplice di fronte a loro: unirsi o perire. Questa è la scelta in tempo di globalizzazione. Di fronte a colossi come Stati Uniti, Cina, Russia, India, Brasile, solo come europei abbiamo speranza di competere, di difendere i nostri interessi e i nostri valori, di offrire al mondo un nuovo modello di governance per il mondo. Abbiamo fretta di far uscire l'Europa da questa crisi, di ridare speranza agli europei. Consapevolezza che con un governo federale possiamo superare la crisi, superare la contraddizione tra un mercato unico, una moneta unica e 28 politiche economiche nazionali, e recuperare un ruolo sul piano mondiale. Possiamo farcela, dobbiamo farcela, cogliendo la quarta occasione storica di fare l'Europa, che si aprirà dopo le elezioni europee, che possono dare l'avvio a una nuova fase costituente.